Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Quanto è bello un po', eh? Cioè, dice tutto. Se tu traduci boh, c'è una frase lunga e noiosa così in inglese, ma in italiano boh. Hai fatto, no? Hai capito un sacco di cose quella boh lì. Infatti è talmente forte che lo uso anche quando parlo in inglese, con inglesi. Perché il mio cervello non vuole sapere questa frase, vuole boh, vuole boh. Insomma, veramente un personaggio speciale, John Peter Sloan, che si è nato prematuramente a 51 anni. È stato cantante, attore britannico, comico dal 1990, però è arrivato in Italia, ha avuto un grande successo, è diventato un volto celebre di Zelig e poi ha veramente rivoluzionato il modo di insegnare e di imparare l'inglese. Qui si metteva nei panni degli italiani, dalla parte loro, di come si poteva appunto interpretare l'inglese e imparare nel modo migliore. Lo ricorderemo nel corso di questa puntata, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, e ci occuperemo, fra le altre cose, naturalmente, ancora molto di politica. Oggi c'è stata la giunta delle autorizzazioni del Senato che ha respinto la richiesta di processare Salvini per la vicenda Open Arms. Adesso però passa la palla al Parlamento, anche se nel frattempo si sono create molte frizioni all'interno della maggioranza, perché Italia Viva nuovamente ha mandato un avviso a Conte non votando, uscendo nel momento della votazione, e qualcuno legherebbe questa vicenda al caso Lombardia che sta montando nelle ultime ore e di cui parleremo naturalmente in modo approfondito nel corso di questa puntata. Poi molti altri argomenti, ma fra l'altro l'appello della Croce Rossa, avremo il presidente della Croce Rossa italiana per quel test sierologico su 150.000 cittadine e cittadini italiani, questo campione formato dall'Istat che avevo annunciato già giorni fa, e farà un appello, insomma, perché le persone rispondano al numero di telefono quando chiamano i volontari. Poi parleremo delle possibili conseguenze in alcuni pazienti del coronavirus. Però non vi sto a anticipare tutto, seguite la puntata senza perdere un solo minuto. Tra poco sintesi della giornata per i vostri commenti o riflessioni, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp in particolare. Lo so, preferite WhatsApp, 349-238-6666. Dati sul Covid-19 in Italia, ancora in calo i contagi, sono 78 i morti in un giorno, più di 2.500 i guariti e 53 province sono senza nuovi casi. In settimana la decisione del governo sugli spostamenti tra le regioni. L'indagine sierologica del Ministero della Salute su un campione di 150.000 persone. L'appello della Croce Rossa, rispondete al numero 065510, non è una truffa telefonica. Effetto Notte, il presidente Francesco Rocca. Comitato Tecnico Scientifico boccia l'idea di un rientro dell'ultimo giorno a scuola per i saluti. Allo studio un sistema misto per il ritorno in aula a settembre. La vicenda Open Arms, la giunta del Senato dice no al processo per Matteo Salvini. I renziani non partecipano e intanto esplode il caso Lombardia. Le conseguenze del coronavirus, il 30% dei pazienti guariti potrebbe avere strascichi importanti ai polmoni. Francia, Macron mette 8 miliardi per l'auto made in France, fino a 7.000 euro per l'acquisto delle ibride. Addio John Peter Sloan, se n'è andato a 51 anni, il comico insegnante d'inglese più famoso d'Italia. Partiamo quindi come sempre dai dati quotidiani della Protezione Civile sul coronavirus in Italia. Sono 230.555 i contagiati totali dall'inizio per coronavirus nel nostro paese, 397 più di ieri. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagi sono 159 in più, 4 regioni, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata, e la provincia autonoma di Bolzano registrano 0 nuovi contagiati. Sono 78 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, l'incremento più basso dal 2 marzo scorso. In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 22. I morti così a livello nazionale dall'inizio della pandemia salgono a 32.955 e sono saliti a 144.658 i guariti e i dimessi per coronavirus nel nostro paese, con un incremento rispetto a ieri di 2.677. E intanto le regioni pensano ai tempi della riapertura. Naturalmente sarà il governo a dare la notizia verso il prossimo 3 giugno. I governatori del sud, il presidente di regione, mettono però le mani avanti su Lombardi e Piemontesi. È attesa fra giovedì e venerdì la decisione del governo sulla ripresa degli spostamenti fra regioni prevista per il 3 giugno. La valutazione terrà conto degli ultimi dati sull'andamento dell'epidemia. In caso di situazioni critiche, l'apertura dei confini di alcune regioni potrebbe essere ritardata di una o due settimane. A rischiare sarebbero soprattutto Lombardia e Piemonte. Preoccupati, i governatori del sud spingono per la linea della prudenza e alcuni di loro minacciano di vietare l'ingresso a chi arriva dalle zone del nord più colpite dal Covid. Nel frattempo, dopo lo scontro interno e la successiva mediazione di Palazzo Chigi, nella maggioranza si cerca un'intesa sugli assistenti civici, i volontari che dovrebbero aiutare i comuni a far rispettare le norme sul distanziamento sociale e l'uso delle mascherine. Criticata soprattutto da Movimento 5 Stelle e Italia Viva, la proposta del ministro per gli affari regionali Boccia oggi incassa il sostegno del collega alla salute Speranza, secondo il quale gli assistenti sono energie a sostegno dei nostri sindaci. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. A quanto si apprende, dal 15 giugno la Germania, se tutto andrà bene, manderà i suoi cittadini in vacanza eliminando le limitazioni di viaggio verso i 26 stati UE e verso Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein. Possibile un'apertura delle frontiere dal 15 giugno anche in Francia e in Grecia, mentre in Spagna la revoca della quarantena per i turisti, ma solo provenienti dall'Unione Europea, dovrebbe scattare il 1 luglio. L'Austria, dal canto suo, ha invece solo aperto la possibilità per tedeschi e svizzeri di raggiungere l'Italia dal 15 giugno attraversando il paese ma senza fare sosta in territorio austriaco. Apertura ai turisti tedeschi dal 3 giugno eppure con test in regalo da parte del Trentino Alto Adige, lo ha dichiarato al programma Rai 100 Città il presidente della regione autonoma Arno Compaccer. Noi vorremmo offrire a tutti i turisti che vengono qui gratuitamente un test che possono fare, il test serologico o anche il PCR, e lo offriamo, e questo sarà collegato ovviamente anche a determinate libertà all'interno degli alberghi stessi. Da 15 giugno EasyJet tornerà a volare in Italia con una ripresa graduale che partirà da voli nazionali in 8 aeroporti più un collegamento da Brindisi a Ginevra. Garantita una sanificazione quotidiana e sistemi di filtraggio come quelli degli ospedali, a bordo non ci sarà servizio di ristorazione e sarà obbligatoria la mascherina. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Covid-19 potrebbe avere delle serie conseguenze respiratorie per il 30% dei pazienti guariti. Le criticità messe nero su bianco dalla Società Italiana di Pneumologia. Per parlarne, comunque, sarà ospite qui a Effetto Notte nel corso di questa puntata il direttore della pneumologia della Fondazione X Policlinico San Matteo. E poi l'appello della Croce Rossa. I volontari e i colleghi della Croce Rossa stanno lavorando senza sosta per questo servizio importante per le nostre comunità. Se ricevete una chiamata dal numero che inizia con 06 55 10, è la Croce Rossa italiana, non uno stalker, non è una truffa telefonica, ma un servizio che potete rendere al vostro paese attraverso un piccolo prelievo venoso. La Croce Rossa lo ha detto in merito all'indagine sirologica voluta dal Ministero della Salute, avviata ieri su un campione di 150.000 persone. Però ci spiegherà più nel dettaglio qui a Effetto Notte il presidente della Croce Rossa italiana, Francesco Rocca. Passiamo alla scuola. L'ultimo giorno di scuola bocciato dal Comitato Tecnico Scientifico e i sindacati in agitazione contro l'accordo di maggioranza sul concorso. Intanto si discute sul ritorno in aula a settembre. Troppo pericoloso consentire l'ultimo giorno di scuola. Il Comitato Tecnico Scientifico boccia all'unanimità la proposta della Vice Ministra all'Istruzione Anna Ascani di consentire agli studenti dell'ultimo anno di elementari, medie e superiori un ritorno a scuola per almeno un giorno. Secondo il Comitato sarebbe impossibile garantire il distanziamento tra i ragazzi e troppo alto dunque il rischio contagio. Ascani però insiste, permettiamolo almeno all'aperto, in sicurezza. Intanto i sindacati della scuola CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda dichiarano lo stato di agitazione contro l'accordo di maggioranza sul concorso riservato ai 32.000 precari con il superamento dei quiz e il rinvio all'autunno. L'anno scolastico, dicono, comincerà con 200.000 supplenti, il concorso rapido avrebbe assegnato le prime cattedre. Non sarebbero state comunque più di 10.000. I concorsi in autunno assegnano in tutto 78.000 cattedre. Parte infine nel mondo della scuola la discussione sulla proposta della task force ministeriale, ritorno in aula a settembre per elementari e medie, scaglionati e distanziati, e ancora molta didattica a distanza per le superiori. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Passiamo alla politica, no, al processo a Salvini. Italia Viva non partecipa al voto in giunta sul caso Open Arms. L'ultima parola spetta ora al Senato. Italia Viva si astiene. La 5 Stelle Riccardi e l'ex pentastellato Giarrusso votano sì e così la Giunta per le immunità del Senato accoglie la richiesta del presidente Gasparri e respinge la richiesta di autorizzazione a procedere del Tribunale di Palermo per l'ex ministro Salvini per la vicenda Open Arms. L'ago della bilancia è Renzi, che cambia posizione rispetto alla precedente votazione per i casi di Ciotti e Gregoretti e fa sì che i tre senatori di Italia Viva si astengano e salvino Salvini. La parola finale spetta ora al Senato, che dovrà pronunciare il verdetto definitivo entro giugno. L'esito non è scontato e a questo punto dipende dai 17 parlamentari di Italia Viva. Soddisfatto il presidente della Giunta, Gasparri, e ovviamente Salvini. La Giunta del Senato questa mattina ha detto, anzi ha votato 13-7. Salvini, bloccando quello sbarco nell'agosto scorso, ha fatto il suo dovere, ha agito per interesse pubblico e non per interesse privato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, è da alcuni giorni sotto tutela a seguito di pressioni per tentativi di corruzione e minacce ricevute rispetto alla sua attività politica, in particolare riguardo alla destinazione dei fondi pubblici per l'emergenza coronavirus. L'esponente del Movimento 5 Stelle, secondo quanto si apprende, viene accompagnato da un agente della pubblica sicurezza. Siamo all'estero, il piano dello Stato francese per sostenere il settore auto vale oltre 8 miliardi di euro, lo ha annunciato il Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, presentando il piano che ha definito storico per sostenere e rilanciare il comparto in Francia. Il presidente Emmanuel Macron va in soccorso dell'industria automobilistica francese, duramente colpita dalla crisi del coronavirus. In occasione di una visita negli stabilimenti di Baleo, nel nord del paese, l'inquilino dell'Eliseo ha annunciato un imponente piano di aiuti volto a rilanciare il comparto nazionale. Ampio sostegno allo sviluppo delle auto elettriche ed ibride, con un traguardo ambizioso fissato per il 2025. Faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe. Rendere la Francia la prima nazione in Europa produttrice di macchine pulite, con 1 milione di auto all'anno, ha annunciato il presidente. Ma il progetto prevede anche incentivi fino a 7.000 euro per l'acquisto di mezzi non inquinanti, la creazione di un fondo da 600 milioni per sostenere la filiera e nuovi investimenti destinati a ricerca e innovazione. L'État au total apporterà un po' più di 8 miliardi di euro d'aide. Lo Stato metterà in tutto più di 8 miliardi di euro, ha detto Macron, spiegando che in cambio i gruppi hanno preso una serie di impegni forti, come quello di rilocalizzare la produzione in Francia. Un messaggio rivolto soprattutto a Renault, a cui il presidente ha chiesto garanzie sui posti di lavoro in cambio del prestito da 5 miliardi previsto per il gruppo. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Il Consiglio di amministrazione di Intesa San Paolo ha approvato la delibera relativa al finanziamento in favore di Fiat Chrysler Italy per un importo pari a 6,3 miliardi, quanto si apprende da fonti finanziarie. La decisione, precisano le fonti, è avvenuta anche considerando il ruolo fondamentale del finanziamento stesso per la filiera italiana dell'automotive. E spostiamoci di nuovo sul mondo, calore record a New Delhi, dove c'è anche allarme locuste. La capitale indiana ha registrato oggi il picco di 46 gradi centigradi, la temperatura più alta mai toccata in città nel mese di maggio dal 2002. India, che con Brasile e Russia resta una delle zone del pianeta dove la pandemia è più attiva. Nella terza ondata della pandemia i maggiori contagi si registrano non più nei paesi sviluppati come Stati Uniti e Europa, ma in quelli in via di sviluppo. I primi tre paesi della sigla dei cosiddetti BRICS, che sono Brasile, Russia e India, sono i più toccati in questo momento dalla crisi sanitaria. Il Brasile di Jair Bolsonaro in particolare è salito al secondo posto dopo gli Stati Uniti nella triste classifica mondiale per contagi e vittime da Covid-19, con 375.000 casi accertati e 23.000 morti, al terzo posto dalla Russia. Negli USA, che hanno 1.600.000 casi e quasi 100.000 morti, negli ultimi giorni sono rallentati sia i contagi che le vittime. Il presidente Trump, come aveva fatto con i voli dalla Cina e dall'Europa, ha bloccato anche gli arrivi dal Brasile. In America Latina il virus si diffonde molto rapidamente anche in Perù, Cile e in Argentina in misura minore. Tra i paesi del G20, il Brasile è quello che finora ha sottovalutato maggiormente il pericolo della pandemia. Con il presidente Bolsonaro, che ha organizzato fino a pochi giorni fa raduni politici nel pieno della pandemia e continua a farsi fotografare senza mascherina accanto ai suoi sostenitori. In un mese si sono dimessi due ministri della salute in polemica con le politiche di Bolsonaro. In questo momento il Brasile è l'epicentro mondiale della crisi da Covid-19 con oltre 1.000 morti al giorno. Riccardo Barlama, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di paziente virtuale, evitare i test sugli animali e nello stesso tempo dare una grande accelerazione alla ricerca garantendo l'affidabilità dei risultati. È possibile grazie al paziente virtuale, un software nato in Italia dall'Università di Catania e per il quale il gruppo di ricerca che lo ha messo a punto intende presentare entro l'autunno un dossier all'Agenzia Europea per i Medicinali, cioè l'EMA, in questo senso. Vedremo quindi in autunno che cosa succederà a questo proposito. E poi la scomparsa, 51 anni, di John Peter Sloan, il comico insegnante di inglese più famoso d'Italia. Lo ricorderemo nel corso di questa puntata. Per chiudere lo sport, scontro nel calcio di Serie A. La Lega fa causa a Sky, che non versa l'ultima rata dei diritti per il campionato in corso, per la stagione in corso. Sul calendario intanto si aspetta la decisione del governo. Bene, direi qui si chiude questa sintesi della giornata, così tra poco possiamo cominciare ad approfondire alcuni temi con gli ospiti. Scrive un ascoltatore, vi ricordo per i vostri messaggi pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp 349-238-6666. Dice: ma la Croce Rossa io l'avevo contattata per essere volontario ai test sierologici e mi hanno detto che non sapevano nulla, poi alla fine ho dovuto pagare 55 euro per farlo privatamente, solita organizzazione italiana. Dice Gianni: no Gianni, in questo caso non sei tu che chiami la Croce Rossa, ma è la Croce Rossa che attraverso il campione di 150.000 tra italiane e italiane fornito dall'Istat chiama le persone che sono state identificate. Poi lo spiegheremo meglio col presidente della Croce Rossa italiana, però è la Croce Rossa che in base a questo campione fornito dall'Istat chiama le persone che sono state individuate e oggi ha lanciato l'appello, cioè, di rispondere a questo numero di telefono per dare un contributo alla ricerca, alla nazione eccetera, ma anche a se stessi, perché se si fa il test sierologico gratuitamente si sa qualcosa di più di come siamo stati negli ultimi mesi. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, ci sentiamo a momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Come sempre lo sapete, questi 60 minuti ricchi ricchi di notizie, con la sintesi della giornata, con gli aggiornamenti in diretta, con gli ospiti che poi approfondiscono e chiariscono, chiariamo insieme alcuni temi in primissimo piano, poi i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Dice questo ascoltatore: buonasera Roby, grazie per esserti ricordata di John Peter Sloan, non ne ha parlato nessuno in tutta la giornata, mi mancherà la sua frizzante allegria, lo consideravo un Benigni inglese, scrive Loris. Effettivamente una persona oltre che un personaggio speciale, che poi ricorderemo verso la fine di questa puntata. Adesso ci concentriamo su invece la politica italiana. Ieri il tema del giorno era senz'altro quello degli assistenti civici, di cui abbiamo parlato ampiamente con Effetto Notte, cioè i 60.000 volontari che nel progetto del ministro Boccia e del presidente dell'ANCI, Associazione Comuni Italiani De Caro, dovrebbe aiutare i sindaci, almeno fino a ieri, nel distanziamento sociale. Abbiamo parlato anche con Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, che invece pensava come alternativa ai percettori del reddito di cittadinanza, e poi anche col portavoce dei funzionari di polizia, che ha anche spiegato insomma quali potevano essere le difficoltà di mettere in campo questi 60.000 volontari. Il Viminale poi ieri ha detto al Ministero dell'Interno che non era neanche stato informato di questo progetto. Poi un vertice ieri in serata, di cui vi ho dato man mano gli aggiornamenti, tra Conte e i ministri in questione per trovare una mediazione. Non si ferma ancora del tutto questa polemica, però il ministro Boccia va avanti col suo progetto, una volta escluso già dal vertice di ieri che i volontari si occupino di movida o di ordine pubblico, e sembra esserci un accordo nella maggioranza. Poi oggi anche il ministro della Salute e Speranza ha ribadito che quelli di questi volontari saranno energie a disposizione dei sindaci, non avranno una funzione securitaria ma di accompagnamento a iniziative di solidarietà e servizi sociali, quindi ancora come altri volontari portare le medicine a chi ne ha bisogno, portare a casa la spesa, insomma, quindi una funzione un pochino diversa da quella che era sembrata all'inizio. Ma oggi sono altri due i piatti forti del menù politico, che per i più maliziosi tra l'altro potrebbero essere collegati tra loro. E qui, a proposito di maliziosi, saluto Betta Fiorito del Carabetta in diretta da Roma. Betta? È così maliziosa che proprio non c'è, Betta. Eccoci, eccoci, ci sono. Avevo praticamente... Tu ti distrai, tu ti guardi il telefonino come fanno gli adolescenti. No, stavo cercando qualcosa appunto su questi due collegamenti che facevi te, che tutti a Roma stiamo facendo, appunto. Roma e Milano. Allora, suspense, ci dirai. Io intanto dico che uno dei due temi è appunto che la Giunta per l'immunità a procedere del Senato ha respinto oggi la richiesta di autorizzazione a procedere procedere per l'ex ministro dell'interno Matteo Salvini, sempre per la vicenda Open Arms, come era stato anche per la nave Diciotti, eccetera, per aver bloccato quando era ministro dell'interno una nave per alcuni giorni, l'Open Arms, nave spagnola con più di 100 migranti a bordo per alcuni giorni al largo. Poi l'altro caso invece, il caso Lombardia, che sta, dicevo, montando nelle ultime ore, perché a capo della commissione d'inchiesta sulla Lombardia, insomma, se le cose sono state fatte in regola o no nella gestione dell'emergenza Covid-19, a capo di questa commissione d'inchiesta è stata eletta la renziana Patrizia Baffi, eletta però con i voti della Lega, mentre lei è di Italia Viva. È stata la protesta del PD, il Movimento 5 Stelle parla di scambio col voto oggi su Salvini, ecco perché ci sarebbero questi collegamenti. Però Betta, partiamo brevemente dal no della Giunta al processo a Salvini e spieghiamo anche perché. Questo è il voto della Giunta, però poi la parola passa al Parlamento, perché questo è un voto preliminare, allora, sì, diciamo, questo, una spiegazione. Sì, c'è la Giunta per le autorizzazioni che dà un parere e poi chiaramente si passerà all'Aula. In questo caso ci sono stati dei no. Cioè c'è stata Italia Viva che aveva 3 senatori e si è sfilata, non ha partecipato al voto. E poi ci sono stati una dissidente del Movimento 5 Stelle e un ex Riccardi. E c'è e praticamente l'ex Grillino che è Giarrusso, che è abbastanza famoso. E loro chiaramente hanno fatto un discorso politico. Adesso bisogna capire che cosa succederà con Alessandra Riccardi, perché sappiamo che i Grillini generalmente, quando si vota in dissenso, generalmente prendono dei provvedimenti, espellono la persona che poi ha votato contro. Beh, quindi... allora sentiamo Riccardi che spiegazione ha dato, no, di aver votato, diciamo, in dissenso col resto del Movimento 5 Stelle. Per aver votato secondo coscienza e secondo me in applicazione del diritto. Quindi una sanzione disciplinare per un voto dato in un organismo paragiurisdizionale? Non penso. Comunque, vabbè, rispondo ovviamente nelle conseguenze delle mie azioni. Io ho votato perché mi sono fatta questo convincimento in base alle carte. Secondo me non era stata modificata la linea rispetto al caso della Diciotti e quindi ho mantenuto una coerenza su quella linea. Sentiamo Betta, anche Gennaro Migliore di Italia Viva, perché appunto, come hai spiegato, si sono sfilati, non hanno votato i membri della commissione della Giunta per le autorizzazioni, ha deciso Italia Viva di non partecipare a questo voto. Sentiamo Migliore però cosa ha detto, dice: noi siamo stati coerenti perché, come dicevamo all'inizio, volevamo avere più documentazione per capire se effettivamente Salvini aveva agito in modo scorretto oppure no. Sentiamo Migliore. Italia Viva si è comportata esattamente come 3 mesi fa, e cioè abbiamo detto che avremmo voluto fare un approfondimento e che ci saremmo riservati per l'Aula. Semmai quelli che hanno cambiato posizione sono il PD, ma soprattutto il Movimento 5 Stelle. Con i voti dei 5 Stelle, peraltro, era anche influente sul risultato finale il voto che avremmo espresso noi. Ma ripeto, noi siamo per andare sempre a vedere le carte. Il problema è nel Movimento 5 Stelle, che ha avuto un cambiamento di posizione al suo interno. Beta, allora, in realtà diciamo che a essere insomma decisivi in questo voto che ha respinto per il momento l'autorizzazione a procedere sono stati, come dicevi tu, la dissidente del Movimento 5 Stelle e l'ex Grillino Giarrusso, quindi non i renziani, però è vero che i renziani in questo modo, non votando e non votando con la maggioranza, comunque hanno mandato l'ennesimo segnale a Conte e al governo, o no? Ah, sì, comunque poi 3 voti sono 3 voti, poi bisogna capire esattamente. Sì, forse non sono decisivi, però comunque non ha partecipato al voto e di fatto la maggioranza è stata scoperta da 3 voti e ogni voto al Senato conta. È chiaro che bisogna capire che cosa farà Italia Viva in aula, perché un conto è una giunta, un conto è arrivare in aula in una situazione come quella di tensione che c'è all'interno della maggioranza, soprattutto con Italia Viva e magari decidere di non partecipare al voto, perché ricordiamo che al Senato l'astensione è equiparata ad un voto contrario, quindi l'unico modo per non votare no o votare, no, o votare sì è alzarsi e andarsene e uscire dall'aula. Ecco, se in quel caso Italia Viva dovesse uscire dall'aula con i suoi 17 senatori, è chiaro che il messaggio sarebbe di forte crisi all'interno del governo. È anche contraddittoria, è vero, la posizione del Movimento 5 Stelle, perché Salvini era ministro dell'interno in un governo giallo-verde, questo lo sappiamo tutti, sì. Però in politica sappiamo anche che le alleanze di ieri poi sono le trincee di domani, ecco, quindi in questo caso Conte e Di Maio si sono sfilati da questa decisione di Matteo Salvini, hanno sempre ribadito di non esserne stati a conoscenza o di non aver preso poi parte a questa decisione, e questo è. Vediamo che cosa succede al Senato. È chiaro che comunque l'ennesima sfilacciatura di Italia Viva, dopo i braccianti, dopo è l'ennesima presa di posizione che si intreccia con quella della giunta della commissione d'inchiesta in Lombardia per come il dicevamo. Coronavirus che praticamente elegge questa Patrizia Baffi a capo di questa commissione d'inchiesta che tra non l'altro si vuole dimettere, che tra l'altro lei si è autocandidata mentre PD e Movimento 5 Stelle avevano candidato un consigliere democratico Jacopo che è Jacopo Scandella, Scandella, no? Quindi sì. Una specie di giallo c'è in questa cosa, oppure di una manovra che è sfuggita di mano? No, cioè e sembra noi da sempre un po' giornalisti politici diciamo che poi tra i due Mattei c'è questa simpatia, no? Sotto. Si parlano e che insomma un po' non c'è tutta questa antipatia, ecco. Beh, il Movimento 5 Stelle addirittura, come dicevo prima, parla di un voto di scambio, nel senso che Italia Viva ha fatto, diciamo, tra virgolette, secondo il Movimento 5 Stelle, il piacere a Salvini a sfilarsi dalla commissione dalla giunta per le autorizzazioni non votando, e quindi allora in Lombardia avrebbero dato il posto di capa di questa commissione. Mi sembra un pochettino azzardata, ora, dici, come ipotesi. Beh, insomma, sì, diciamo che c'è una simpatia e che questa simpatia non sta bene alla maggioranza di governo, ecco, e che bisogna capire che cosa succederà, perché il discorso è che cosa vuole fare sempre Matteo Renzi. Matteo Renzi ha voluto questo governo, ha creato poi Italia Viva. Fermare l'altro Matteo, tra l'altro, attenzione, sì, lui diceva per fermare l'altro Matteo. Noi pensavamo che a un certo punto loro si sentissero e che questo governo giallo-verde dovesse cadere per andare al voto. Poi in realtà il giallo-verde. Poi in realtà Matteo Renzi ha fatto una sorta di sgambetto. Ecco, queste erano un po' le ricostruzioni fantasiose. Certo è che comunque è chiaro che in questo momento Italia Viva è abbastanza nell'angolo, perché tanto è vero che Ettore Rosato ha detto anche Patrizia Baffi si deve rimettere, e lei ha risposto: io non mi dimetto manco per quindi, niente. Però Orlando quindi gli ha detto uno stesso del suo partito Italia Viva, sì. Però Orlando, vice segretario del PD, ha detto c'è qualcosa da nascondere, perché dice: una coalizione e una giunta che non hanno nulla da nascondere non si scelgono il presidente della commissione d'inchiesta, che compete invece all'opposizione. Quindi tu che ci insegni tutte le regole. Vabbè, lei è dell'opposizione, la maggioranza in Lombardia ti potrebbe rispondere. Il problema è ora che qualcosa sia andato un po' storto nella gestione coronavirus in Lombardia, mi sembra che questo sia nei fatti, no? Oramai è chiaro che verranno appurate tante cose, verranno appurate le RSA, che cosa è successo, cosa non è successo. La questione è molto spinosa. Magari Jacopo Scandella era un pochettino più intransigente, magari con Patrizia Baffi loro pensano di poter dialogare, a meno che invece, come dicono i 5 Stelle, non ci sia stato un vero e proprio voto di scambio. Che sappiamo che la Lombardia, no, è un po' nell'occhio del ciclone per i tanti morti, per alcune cose, alcuni errori che probabilmente sono stati fatti. Comunque, diciamo poi che, insomma, gli errori nell'RSA sono stati fatti, questo mi sembra evidente. E poi si fa sempre il paragone situazione con il Veneto di Zaia rispetto alla Lombardia e lì di si frappone un'altra questione chi vincerà tra la Lega Lombarda e la Lega Veneta, perché già si parla, mi pare, certo, Betta, di un contrasto tra i due, del fatto che il prossimo leader della Lega potrebbe essere Zaia. Certo, allora, il Veneto ha gestito questa emergenza, mi sembra, in molto modo bene, nettamente migliore della Lombardia. Matteo Salvini ha un forte calo dei consensi, cioè non appare più così credibile come era un anno fa, no? Quando ha vinto l'Europea, la Lega, eccetera, eccetera. E a questo punto invece Zaia appare un uomo di governo. Ricordiamo che poi Zaia è anche stato ministro a lungo, e quindi governatore, sindaco, insomma. Ci sono delle cose che poi fanno credere più, è un uomo più affidabile. Sarebbe però la prima volta all'interno della Lega che un rappresentante del Veneto si impone sul rappresentante della Lombardia. La Lega è sempre stata attrazione lombarda, no? Questo è chiaro. Prima Bossi, poi Maroni, adesso Salvini. Adesso la Lega Veneta potrebbe un po' scompaginare le parti. Staremo a vedere, perché sappiamo che è un momento particolare, poi capiremo come vanno le onde. Senti, Stefano che scrive: buonasera carissima, non vedo né re né regine, alfieri, cavalli o torri, eppure questi disgraziati perdono tempo e governo giocando a scacchi sulla schiena piegata di un paese che guaisce e ringhia. Non sono pessimista, ma l'italiano medio è di basso livello morale, scrive Stefano, e i nostri governanti e le loro controparti non sono mediamente diversi dal popolo da cui si sono staccati. Betta, comunque chiudiamo con due cose molto velocemente. Una è che il Consiglio Superiore della Magistratura, vedo adesso la notizia, apre la pratica sui magistrati citati nell'articolo del giornale La Verità, chiesta dai componenti laici della Lega che hanno chiesto questa inchiesta. Occuparsene sarà la prima commissione del CSM a cui il comitato di presidenza ha inviato gli atti. Cioè una vicenda un po' complicata relativamente ai processi a Salvini, ci sono state alcune intercettazioni in cui si diceva che si doveva comunque agire nei suoi confronti, insomma, no? Una cosa del genere che adesso diventa complicato ricostruire. Diciamo che sappiamo benissimo che ieri c'è stata l'assemblea dell'Associazione Nazionale dei Magistrati e che c'è il ministro della giustizia Alfonso Bonafede che preme anche per una riforma del CSM. Per chiudere, si va verso l'election day, come ormai si dice, probabile il 20 settembre, cioè una stessa data per le elezioni regionali, comunali e referendum che non ci sono potute essere, non hanno potuto avere luogo in questi mesi di lockdown. Per chiudere, c'è le sardine che si sono prese una pausa di riflessione. Sì, diciamo da cosa non si sa. Dissidi interni, non mancano da nessuna parte, anche nelle migliori famiglie. Dissidi interni, quindi. Sartori ha detto che lui non vuole fare partito, non vuole fare, invece gli altri vogliono diventare un partito. Opinioni diverse, insomma. Mi sembra un po' di trambusto, ci penseranno. Carini, simpatici, molto giovani, però un po' di idee confuse ci sono. Per il momento sì. Vediamo se maturano. Non poche idee, abbastanza molte, idee, ma confuse, come si dice. Cara Betta Fiorito, ti abbraccio. Ben presto. Arrivederci. Ciao Betta. Allora ci prendiamo una pausa di riflessione, a proposito di riflessione, brevemente, perché poi si torna con il presidente della Croce Rossa Italiana per questo appello importante. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, sempre lì per voi, oppure SMS e WhatsApp, in particolare WhatsApp al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Indagine sierologica molto importante, perché ci consentirà di capire esattamente che cosa è avvenuto in queste settimane, in questi mesi, in termini quantitativi. Voglio ringraziare Istat che ci ha aiutato a costruire un campione omogeneo di 150.000 persone, che sarà in piccolo la proiezione di tutto il nostro paese. E chiaramente ringrazio anche la Croce Rossa Italiana, che è in qualche modo il soggetto esecutore, stanno lavorando incessantemente per favorire questo processo. È fondamentale che le persone che verranno contattate dalla Croce Rossa rispondano positivamente a questa chiamata. È fondamentale, avete sentito il ministro della Salute Speranza, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, a proposito di questa ricerca epidemiologica che è partita grazie alla Croce Rossa in Italia. Ricordate che nelle scorse settimane appunto vi avevo parlato, no, di questa indagine epidemiologica che la Croce Rossa avrebbe a breve svolto in Italia su un campione di 150.000 persone attraverso dei test sierologici. E poi a parlare in trasmissione i giorni scorsi, a spiegare anche i dettagli, è venuto il segretario generale della Croce Rossa Flavio Ronzi. La notizia oggi è che tra ieri e oggi sono partite le prime 7.500 telefonate a questo campione di cittadine e di cittadini in Italia da parte di volontari della Croce Rossa per raccogliere appunto le adesioni a questa campagna di test sierologici che servono per mappare la diffusione del coronavirus in Italia. Ma che cosa succede? Che da queste prime chiamate il 60% dei contattati danno, diciamo, delle risposte indecise, sono un po' tentennanti, altri temono che si tratti di una truffa, no? Quando magari ci sono, diciamo, i call center che magari offrono di acquistare delle cose, di cambiare un certo tipo di servizio, eccetera eccetera, altri si dicono preoccupati. Insomma, evidentemente c'è qualcosa un po' da chiarire. Allora è arrivato oggi l'appello della Croce Rossa Italiana a rispondere. Dice la Croce Rossa Italiana: se si riceve una chiamata dal numero che inizia con 06 55 10, numero che poi ripeterò, 06 55 10, non è uno stalker, non è una truffa telefonica, per favore rispondete. E direi di fare direttamente confermare questa cosa e questo appello dal presidente della Croce Rossa Italiana, che è Francesco Rocca, che saluto e ho il piacere di avere ospite in trasmissione. Buonasera presidente Rocca. Buonasera a lei e grazie per l'opportunità. Tra l'altro ricordo, devo fare i complimenti al presidente Rocca perché è stato rieletto domenica per la terza volta presidente della Croce Rossa Nazionale, alla guida già dal 2008, quindi complimenti presidente intanto per questo e del suo lavoro evidentemente. Sarà l'ultima volta perché c'è statuto proprio, quindi è l'ultimo mandato che farò comunque con tanto entusiasmo, così come ho svolto i precedenti. Certamente. Comunque grazie per l'attenzione, lei ha comunque centrato il punto. Da un lato l'importanza di conoscere il valore che ha per la nostra comunità nazionale questa indagine che stiamo facendo insieme al Ministero della Salute e all'Istat, dall'altro purtroppo magari i nostri concittadini sono così spaventati dai call center, ormai ci chiamano magari anche ripetutamente più volte al giorno per avere informazioni, come sentono che è un centralinista o comunque qualcuno che sta chiamando immediatamente, proprio l'istinto è quello di chiudere il telefono. Allora, se ricevete, come lei ha ricordato, questa chiamata dallo 06 55 10 è un'occasione per rendere un servizio al paese e comprendere esattamente lo stato di salute e il livello di diffusione della malattia. Non è uno scherzo, è una cosa molto importante per poter anche procedere. Noi siamo ancora in una fase di non più di lockdown, però insomma ci sono ancora parecchie restrizioni. Attraverso queste analisi si danno le informazioni corrette alla politica per poter prendere delle decisioni informate, per cui è fondamentale partecipare. Presidente Rocca, tra l'altro prima ho fatto sentire appunto il Ministro della Salute Speranza, che oggi ha visitato proprio la sede nazionale, no, vostra, della Croce Rossa a Roma, che è il centro operativo da dove da ieri si stanno effettuando queste chiamate ai cittadini per l'indagine di sieroprevalenza. E Speranza oggi ha detto appunto, come lei ha ribadito, conoscere l'epidemia è importante per vincerla. Vogliamo spiegare esattamente proprio i passaggi alle cittadine e ai cittadini che verranno chiamati? Abbiamo detto, e lo diceva anche prima il Ministro Speranza in questo audio, che l'Istat ha fornito questo campione per genere sessuale, per età, per anche collocazione geografica, no? In modo da avere un campione rappresentativo in Italia. Condizioni socio-economiche, sì? Economiche, condizioni di salute, cioè ha fatto loro davvero una fotografia del paese per 150.000 unità, in maniera tale che fosse il più possibile comprensiva e possa mettere in condizione gli epidemiologi e gli scienziati, coloro che stanno lavorando su questa malattia, di poter leggere quanto ha toccato il nostro paese, quante persone hanno sviluppato difese immunitarie, per capire quanto si può riaprire, che attività e che grado di pericolosità c'è ancora all'interno del nostro paese rispetto alla contagiosità del virus. Quindi una volta fornito alla Croce Rossa, ai volontari della Croce Rossa, questo campione dall'Istat, i volontari appunto stanno chiamando man mano, sono partite le prime 7.500 chiamate già in alcune regioni, no? In province autonome di Trento e Bolzano, nel Lazio, la Liguria, Basilicata. Sostanzialmente tutta Italia stanno, sì, partendo, E ci sono due modi, sì. O recandosi, come noi auspichiamo, presso gli ambulatori che verranno indicati, i punti prelievo che verranno indicati nel corso della telefonata, o per le persone che hanno difficoltà di mobilità, di deambulazione, anche con il prelievo domiciliare. Cioè cerchiamo di venire incontro a tutto il campione della popolazione proprio per fare in modo che l'indagine sia la più attendibile possibile e possa dare i risultati che noi speriamo. Per chi, Presidente Rocca, fosse preoccupato, no? Diceva magari questo è un momento particolare per andare in un laboratorio, in un ospedale, eccetera, eccetera, andiamo, vogliamo rassicurare. Sì. Cioè, c'è il voi della Croce Rossa a domiciliare, sì. C'è il prelievo domiciliare, non presenta nessun rischio questa operazione, ma anzi il contrario, perché semmai è anche una buona occasione, tant'è che molti ci stanno contattando dicendo ma io sono a disposizione, io mi offro volontario per farlo, perché ovviamente molti hanno bisogno di sapere che hanno sviluppato gli anticorpi alla malattia o meno, e quindi è un'occasione anche se il profilo delle condizioni di salute personale per poter essere testati. Presidente Rocca, per caso sono stati coinvolti anche i medici di base, forse i cittadini richiamati anche dai loro stessi medici di base avrebbero adesso, risposto ai volontari con più tranquillità, è possibile? Stiamo coinvolgendo anche i medici di base, questo è frutto di un dialogo che c'è stato con le amministrazioni regionali, questo la Croce Rossa è esecutrice di una lettura. Io anche devo dire, lo dico con molto rispetto, perché dico, il nostro paese ha fatto tantissimo nel dare una risposta al Covid, poi magari ci sia stata qualche imperfezione. La difficoltà che noi ogni tanto osserviamo è che sono 21 sistemi diversi, 21 sistemi regionali con cui bisogna dialogare ogni volta e ognuno ha una sua modalità di interpretare il ruolo a livello territoriale. Però la sua è un suggerimento che in questo momento abbiamo dato, e stiamo sviluppando anche attraverso i medici di famiglia proprio la possibilità di avere un supporto per poter fare in modo di riuscire in questa impresa importante. Chiaro. Presidente Rocca, quindi per concludere ricordiamo che se in questi giorni cittadini e cittadini vengono chiamati al telefono dal numero 06 55 10 e sono i volontari della Croce Rossa per fare questi test sierologici a campione, e diciamo facciamo un favore a noi stessi se ci facciamo questo esame, perché tanti lo vorrebbero fare, ancora non hanno accesso, hanno problemi a riuscire a farlo, almeno si sa se siamo stati contagiati, se siamo stati in contatto con questo virus, e poi si dà un grosso contributo alla ricerca per il nostro paese. Sì, decisamente, questo è l'aspetto più importante, è quello proprio il senso di responsabilità, quindi è proprio l'appello che noi facciamo, proprio al senso di responsabilità sull'importanza di questo campionamento per il nostro paese. Quindi io mi auguro che davvero ci sia questa risposta da parte di tutti. Grazie al Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca, allora buon lavoro, poi metterò anche questo numero 065510 sulla mia pagina Facebook, così avviso se vi chiamano da questo numero rispondete nel modo più assoluto. Grazie ancora e buon lavoro Rocca, e complimenti. Fantastico. Ancora. Grazie. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo con le notizie, sempre Roberta Giordano con voi. C'è Susi che dice: ciao Roby Cavoletti, ieri ho trovato una chiamata da uno 06871, per fortuna hai dato i numeri, domani li richiamo. Non è quello però l'inizio del numero, l'ho messo anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, quello della Croce Rossa, e quando vi chiameranno 06 55 10 scelgono in base al campione dell'Istat le persone, non è che sono le persone che chiedono alla Croce Rossa di poter fare il test. Comunque adesso parliamo di un'altra cosa importante, perché la pandemia di coronavirus ha fatto e continua a fare, purtroppo, anche se in alcuni paesi grazie al lockdown si sta un po' attenuando, tanti gravissimi danni in tutto il mondo dal punto di vista sanitario, sociale, economico. E come se non bastasse, in una percentuale delle persone che pure sono riuscite a guarire, il Covid lascia una pesante eredità, degli strascichi sulla salute che potrebbero protrarsi a lungo, sulla funzionalità respiratoria, talvolta comprometterla. Questo scenario preoccupante emerge dal convegno digitale della Società Italiana di Pneumologia con STEMnet, che è la federazione delle associazioni di ricerca sulle cellule staminali, e il gruppo italiano Staminali Mesenchimali. Quindi ne voglio parlare con il professor Angelo Corsico, che è direttore della pneumologia della Fondazione X Policlinica San Matteo e ordinario di pneumologia dell'Università di Pavia. Professor Corsico, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie della disponibilità. Quindi c'è questa eventualità così insomma angosciante, negativa, di un possibile strascico cronico? Diciamo che noi abbiamo avuto una serie di avvisagli dal passato e non abbiamo imparato abbastanza dal passato, cioè Nel 2002-2003 c'è stata la prima epidemia di SARS, un virus analogo al all'attuale coronavirus che ha fatto il salto di specie. Abbiamo avuto poi nel 2012 un altro coronavirus che ha causato la MERS. Sono state tutte delle epidemie di polmoniti e i dati della letteratura raccolti nel 2004-2005 ci dicono appunto che un terzo dei pazienti ospedalizzati a sei mesi dalle dimissioni avevano delle alterazioni funzionali respiratorie o delle alterazioni radiologiche. La percentuale diventava ancora più alta se si consideravano gli esami fatti con l'attacco. Oggi non abbiamo un dato definitivo. A Pavia, al Policlinico San Matteo, abbiamo attivato un ambulatorio post-Covid, un ambulatorio che va oltre la specificità della pneumologia, perché comprende infettivologi e specialisti in medicina interna, che sta rivalutando i pazienti che sono stati dimessi dal nostro ospedale. Siamo solo a uno o due mesi dalle dimissioni, quindi le alterazioni che noi possiamo riscontrare oggi potrebbero essere ancora reversibili e non definitive, a differenza di quelle che avevamo riscontrato a Hong Kong negli anni passati. Però ecco, la direzione nella quale stanno andando i nostri riscontri sono quelle che erano state anticipate negli anni passati quando c'era stata la SARS. I colleghi cinesi che sono venuti a trovarci, la delegazione è venuta a trovarci a San Matteo, ci aveva anticipato comunque già dal mese di marzo che quello che loro avevano visto nei loro pazienti erano appunto delle sequele con la fibrosi polmonare che persisteva anche dopo le dimissioni e dopo quindi la risoluzione dell'evento acuto. Quindi voi, professor Corsico, intanto avete con lungimiranza creato, diceva, questo laboratorio a Pavia già attivo da aprile per il post-Covid, cioè dedicato quindi ai pazienti dimessi per seguirli, per capire se ci sono conseguenze o meno. Per ora questa è un'ipotesi della cronicizzazione di alcuni problemi polmonari, però dice è ancora da verificare, ma il passato insomma fa presupporre che ci possa essere questa una nuova patologia respiratoria, insomma, che poi possa diventare una nuova emergenza sanitaria, quindi da tenere d'occhio. Noi lo stiamo vedendo a uno o due mesi, dovremmo vedere a sei mesi che cosa succederà. Certamente questo significa che le pneumologie devono essere rafforzate sia per quanto riguarda l'attività ambulatoriale che per quanto riguarda la possibilità di ricoverare pazienti. Che saranno anche da rafforzare le riabilitazioni pneumologiche, perché questo è l'ambito nel quale verranno trattati questi pazienti, perché la cronicità sembra essere tipicamente polmonare, nel senso di una fibrosi polmonare oppure anche di esiti di embolia polmonare e quindi un coinvolgimento comunque da più fronti del polmone. Quindi insomma, per chiudere, non solo tutto il sistema sanitario deve tenere d'occhio chi è uscito dal Covid-19, ma gli stessi che magari sono guariti è bene che ogni tanto si facciano controllare. Per chiudere, direi, professor Guardi, Corsico. Rapidamente posso dirle questo, che noi abbiamo tutti i giorni tanti pazienti che arrivano con bollino verde mandati dai medici di famiglia per una visita urgente. Molto spesso il quesito è esiti post-Covid, dispnea post-Covid, polmonite e tutto questo. Quindi al di là, noi adesso il nostro ambulatorio post-Covid è riservato ai pazienti che sono stati dimessi da San Matteo, ma ci rendiamo conto che la richiesta sul territorio è enormemente più cospicua. E siamo preoccupati per l'autunno. Grazie intanto, perché professor. In autunno si mescoleranno le comuni virosi respiratorie con il sospetto di nuovi casi di Covid e quindi il rischio potrebbe essere quello di sottovalutare nuovi casi di Covid oppure di mettere in quarantena tantissime persone semplicemente perché hanno febbre da un comune virus. Quindi massima vigilanza e massima preparazione ci vuole per l'autunno. Grazie intanto professor Angelo Corsico, ringrazio e buon lavoro. Grazie. Sì, buonasera. Adesso guardiamo la pronuncia inglese per gli italiani, perché io voglio che parlate come noi e non come quelli macaronico che si vede solo nei film di Walt Disney. Non facciamo brutta figura. Tocca parlare anche di una scomparsa, la morte di un personaggio poliedrico estremamente divertente che esprimeva una grande simpatia anche solo a guardarlo e ha rivoluzionato il modo di insegnare e di imparare l'inglese per noi italiani. Sto parlando di John Peter Sloan, cantante, comico, attore teatrale, scrittore di libri britannico che è arrivato in Italia nel 1990 e poi è diventato uno dei volti più amati di Zelig e poi le sue lezioni di inglese insomma sono diventate un cult e vorrei che ce lo ricordasse il nostro Leonardo Manera, che non ha bisogno di presentazioni, attore, cabarettista, comico e su Radio 24 insieme tutte le mattine ad Alessandro Milan in Uno Nessuno 100 Milan dal lunedì al venerdì alle 9:05. Caro Leonardo, ciao, fai buona serata e a tutti voi. Ti dai un'istantanea di, ma di guarda, John Peter. La cosa che mi ha sempre colpito di Peter, di John, è la forza che aveva, nel senso l'ho sempre trovato una persona veramente sul palco, molto comunicativa, ma soprattutto anche in camerino, perché spesso si ritrovava in camerino a Zelig, ma anche in altri posti, e la cosa che mi ha sempre colpito di lui è stata la sua positività e quello che comunicava anche agli altri in camerino. Infatti stamattina quando ho preso dalla sua morte mi ha colpito proprio per questo, perché per me era inimmaginabile che una persona appunto con quel tipo di carattere fosse morto così giovane. Per 51 me è stato anni. Sì, è stato un grande dolore, perché quando vedi una persona di quel tipo e la conosci, ripeto, soprattutto dietro le quinte, poi ti sembra paradossalmente anche impossibile che muoia, soprattutto a quell'età. E poi la cosa bella, Leonardo, è che si era così integrato bene tra gli italiani che riusciva a vedere l'inglese anche dal punto di vista degli italiani, no? A parte tutte le altre cose. Sì, sì, la cosa che faceva lui era proprio la cosa tipica dei comici, cioè avere un'ottica diversa, un pensiero laterale. Lui riusciva a far vedere noi italiani, a far vedere noi stessi, però da un punto di vista diverso, conoscendo però anche ormai l'Italia e gli italiani. Questa è la caratteristica tipica di far spettacolo in modo efficace. Insomma, ci ha colti tutti di sorpresa, ecco, proprio perché così giovane. Grazie di questo ricordo, Leonardo Manera. Grazie e un abbraccio a te. Grazie a voi. Grazie. Ciao Leonardo, domani mattina. Ciao. Quindi. Ciao. Ciao Leonardo. Torno ratta con la folgore.